sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. A qualcuno avevo annunciato, ma soltanto ieri sera, nottetempo, su Facebook, che oggi avremmo avuto una sorpresa in trasmissione. La sorpresa non è data da un mio merito, ma dalla gentilezza e cortesia di una persona amica molto nota che, passando per Roma, ha avuto la bontà di passare questa mattina per questo studio. Franco Battiato, buongiorno. Buongiorno. Manlio Sgalambro, buongiorno. Buongiorno. È abbastanza tipico che noi in questa trasmissione, che si occupa vagamente di immaterialità, di letture mediatiche, di società, prendiamo al volo un artista di passaggio. Questa mattina l'occasione ci sembrava grassissima. Franco Battiato è a Roma per la tournée del suo ultimo album Flirt 2, e questa mattina è con noi a nostra disposizione per parlare di sé, della musica, del mondo che cambia. Franco, tu hai notato una differenza sostanziale nel pubblico che ti aggredisce praticamente, perché passi per strada e il fatto che ci sia Battiato diventa subito un evento. Questa maggiore sensibilità verso la musica, verso temi abbastanza difficili anche da comprendere, secondo te da cosa è data? Ma non era prevedibile. E succede, forse come si sa, dal fango nasce il loto. Visto che siamo in un momento di forte crisi, probabilmente questa avanguardia di pubblico che sta mostrando un'attenzione, una profondità, perché l'attenzione la puoi avere senza avere profondità. L'attenzione con l'intensità è una cosa diversa. Nei momenti apicali in cui le persone si sentono particolarmente sensibili, perché le certezze stanno scomparendo, è chiaro, noi vivevamo nell'illusione di un'immortalità, di un'agiatezza, di un senso di euforia che ci avrebbe accompagnato per tutta l'esistenza. Oggi improvvisamente ci dicono, dall'inizio di questo anno, questo finirà. Ecco, la fine della possibilità di avere piaceri fisici, piaceri materiali, improvvisamente apre a un bisogno di spiritualità. Può essere, devo dire che tra le altre cose avevamo avuto un precedente, si ricorda la canzone La porta dello spavento supremo, parecchi anni fa, una canzone che farebbe toccare i genitali a quelli che sono così, no, che hanno paura di questo passaggio, però quando la eseguivamo toccava, voglio dire, dei precedenti c'erano già, no? Quindi c'era già dei segni profetici, sì. Nel tuo percorso che... Oggi si è allargata, come dire, tutta la gente che arriva a vedere questo concerto mostra una attenzione veramente suprema. La canzone chiave invece di quest'ultimo album, la sentiamo subito, sembra quasi contraddire questo senso di profonda apocalissi che sentiamo ovunque, perché tutto l'universo obbedisce all'amore. Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Obbedisce all'amore, come può professor Manlio Sgalambro, tutto l'universo obbedisce all'amore. Sembra quasi una risposta allo sconcerto di cui stavamo parlando prima, che ci sta cogliendo stranamente proprio in un momento in cui il primo dei nostri beni in cui ci sentiamo aggrediti è la nostra capacità d'acquisto. Io credo che, per parlare della canzone e dentro la canzone di questo, la canzone abbia, come dire, tutto l'universo obbedisce all'amore è una risposta, diciamo, alla prima parte della canzone. Perché la prima parte della canzone vorrebbe l'amore, o meglio, al posto dell'amore dà l'ospitalità, cioè dire io ti ospito in me. Ecco, oggi cos'è l'amore? Nel tempo dei rapporti fuggevoli, il nostro è un tempo di rapporti fuggevoli, la consistenza del rapporto è non è questo che è un fatto negativo, è il fatto d'oggi, è il fatto contemporaneo. E quindi diciamo, io ti ospito nel mio animo, con gesti gentili, ti accolgo e gentilezza. Ecco, è uno scambio, diciamo, in cui tu, ecco, direi che il senso d'ospitalità è questo. Peraltro l'altra parte invece è come un contrasto, in cui si vuol dire che tutto l'universo invece obbedisce all'amore, cioè dire non è, però questo contrasto che ricorda certi contrasti della poesia, diciamo, si completa proprio in questo fatto, cioè dire che tutto l'universo obbedisce all'amore è una nostra aspirazione, un tentativo, è una grande speranza, è una necessità, è un tentativo di vedere, appunto. Voi lo dite proprio in un momento che sembra assolutamente contraddetta questa frase. Vero, non sembra che oggi tutto l'universo corrisponda all'amore, ma corrisponda alla competizione, alla sopraffazione. Sì. Non c'è posto per tutti, quindi bisogna darsi da fare, lontani quelli che sono diversi da noi, perché sono tutte belle parole. Poi anch'io sembra mi faccio bello di temi positivi, che poi chissà quanto ognuno di noi abbraccia realmente nella propria esperienza personale. Rilanciare un po' questo tema dell'amore, io so che questo è un argomento di cui voi siete saturi, ma tutte le persone che sapevano che oggi veniva Battiato, sarebbe venuto Battiato, o tutte le persone a cui nomino Battiato, hanno soltanto una parola nel rispondere: la cura. La cura è diventata un po' la vostra ossessione. Questa è una canzone, fa parte dell'album L'Imboscata, che è una canzone che assomiglia molto, nei sensi generali, a quello che diceva il professor Sgalambro. È una dichiarazione d'amore in cui non è mai citato l'amore, è la canzone che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire e che l'uomo si mostra disponibile a supportare, a stare vicino, a essere presente, quindi responsabile in tutto quello in cui la donna può sentirsi bisognosa di responsabilità, di qualcuno che si prende la responsabilità. La faccio soltanto sentire per non affogarvi troppo in ciò che è stato molto sentito. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Franco Battiato è un superuomo, questo che promette queste cose. Come fa un uomo a mantenere tutte queste promesse nei confronti di una donna? Per questo ha tanto successo, perché promette quello che nessuno di noi riuscirà mai a mantenere con tutte le buone intenzioni. Beh, ma in realtà non abbiamo fatto altro che teorizzare anche i sentimenti più bassi a livello amoroso, no? Cioè partiamo da un'infatuazione. Nell'inizio di questa fase ci sono tutti gli ingredienti che noi abbiamo esposto teoricamente, no? Perché è così. Quando tu ti innamori di qualcuno, l'oggetto del desiderio è la perdita del proprio ego a favore, no? Quindi è un esercizio interessante di transfer, no? Sì, è importante capire qual è il segmento aureo di questa canzone per cui la gente la sente proprio come la propria canzone. Okay, professor Sgalambo. Al posto di amore hai usato io ti proteggerò, io, questo è il punto. Così come nell'altra canzone, che poi in realtà è un'altra... Un altro aspetto, anzi un altro modo di dire la stessa cosa. Io ti ospito in me, insomma, scartare la parola ti amo, che non ha più alcun senso. È un po' inflazionata, professore. O ha un senso, come dire, ormai direi quasi aderente proprio al fatto sessuale. Io ti amo significa... Invece qui si cerca... Che ha il suo valore anche quello, professore. Certo. Non c'è dubbio, ma sul piano, se si vuole mantenere un piano di ciò che si chiamò amore, noi abbiamo fatto questo, abbiamo cioè detto amore, ciò che è amore, ciò che è l'amore, invece di dire il sostantivo, dire ciò che è l'amore, cioè dire... È quasi una lettura da Dante Gabriele Rossetti, da Fedeli d'amore, qualcosa di stilnovista, l'amore diventa una sublimazione. È stilnovista, dice bene. E questa, secondo te, Franco, è una lettura giusta... Ritornando al tempo che stiamo vivendo, perché la qualità del tempo che viviamo è fondamentale, perché un artista compone canzoni in un suo tempo, che non è il tempo consueto, è il tempo suo, galleggia fra il tempo che viviamo noi e un tempo che lambisce soltanto lui, perché è un artista, è ispirato, non che sia nemmeno manco un merito dell'artista, gli passa attraverso l'ispirazione. Certo, ma come no? Però è un supporto all'artista. Si è allargato molto l'uso, cioè, voglio dire, ha preso... branche per noi imprevedibili, cioè abbiamo saputo di malati, di malattie anche gravi che hanno usato questa canzone, poi ne sono usciti, non certo per la canzone, comunque... Un potere taumaturgico però, della cura. Però appunto è anche verso se stessi, cioè tu ti sdoppi e diventi l'oggetto. Sai, no? Ma oggi c'è un così tanto bisogno di parole forti e di liturgie. Si inventano liturgie sulle cose più banali, se ne inventano in rete, ce ne inventiamo noi ogni giorno. Liturgia mi sembra un vocabolo determinante per tutto quello che mi hai detto dicendo. Anche molta gente se le fa leggere quando si sposa le parole della cura, sì. Invece che scegliere passi della scrittura, sceglie la cura. Sì, la trova più vicina e più moderna, trova una moderna. Probabilmente, sì. E questo ti pesa come responsabilità? Ma no, non mi pesa. Non... Cioè, sinceramente, una volta che scrivi quello che devi scrivere, poi non è più nostro in realtà, no? Tu accetti tutti gli sviluppi possibili che non immaginavi fanno parte di questo gioco. Ecco, in questo album c'è una canzone che ha una sua storia, E più ti amo. Sentiamola. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te. Lasci stare vicino a te, perché se tu mi dici di no mi fai morire, e tu lo sai, la vita sei per me. Franco, qual è la storia di questa canzone? Una canzone che ti ha accompagnato per parecchi decenni. No, diciamo che quando avevo 19 anni ho lasciato la mia isola, cioè la Sicilia, per andare a cercare fortuna. Mi sono trasferito a nord e cercavo un lavoro, naturalmente. Non ero sicuro di dover fare il cantante, poi, in realtà. anche se suona il chiavo già la chitarra. Quindi vidi un annuncio di una casa editrice che diceva cercasi cantanti dilettanti, mi sono presentato a questo provino, questo signore mi chiede cosa vuoi cantare, dico E più ti amo, era una canzone di Alain Barrier che aveva fatto strage quell'estate. Luigi Tantan. Esattamente. E mi fece cantare la prima frase, mi disse va bene, scritturato, domani pomeriggio in sala di registrazione, quindi ho trovato divertente dopo tanti anni. Ma cosa serviva poi questa canzone? Ecco, si facevano dei dischi di plastica. Quelli trasparenti, me li ricordo. Bravo, che andavano nella settimana enigmistica come regalo per invogliare. Apparentemente era un monouso perché la puntina li rovinava subito. Abbastanza. Li sentivi due volte e li buttavi, però sì, erano belli. Sì. Rosa, rossi, giallini. Quindi questo nacque come allegato alla settimana enigmistica. Esatto. Pensa che oggi chi potesse mai avere un reperto di avere uno di quei dischetti di plastica. Ah, ce ne sono che ne hanno. Ce ne stanno? Sì, sì. E che effetto ti fa vederti in quel supporto? Alcun effetto. Senti, il problema del tuo supporto lo sei mai posto te? Oggi riversiamo continuamente da un supporto. Prima è venuto un tuo fan con dei vecchi vinile da firmare. La musica, le parole, quello che noi componiamo necessita sempre per vivere di stare in un supporto. E noi riversiamo continuamente. Ci rendiamo conto che non creiamo supporti eterni. I supporti cambiano continuamente. Eh sì. Ma sono uno di quelli allineati al tempo che vivo. Vabbè, tu hai fatto sperimentazioni appunto, in tempi insospettabili. L'amor mio non muore. Stava dicendo qualcosa lei. Sì, professor Battista, Sgalambro. Io stavo semplicemente dicendo questo, che qui si vede la distanza tra l'amore ancora inteso in senso trascendente, diciamo così, che trascende il fisico, ecco, amore qui ho usato, e come si può parlare d'amore, come abbiamo fatto noi, in effetti come noi riteniamo che si possa parlare d'amore oggi, cioè dire non usando questa parola, non usando nemmeno ciò che vi corrisponde. Qui la distanza è enorme. La distanza. Non ci sono dubbi. Lì, sì. Quello è un tipo, sì, di amore che non, sì, è più riproponibile se non a condizioni particolari date, e non è sicuramente certo la generalità. Cambiano le oggi case. Non trova, professore, che abbia perso un po' dell'aspetto di segretezza, di intimità l'amore? Oggi l'amore è una rappresentazione, la chiave fondamentale del momento più di successo, della rappresentazione televisiva che poi appartiene a tutti noi, racconta a tutti noi, ragazzi chiusi in una casa che fanno l'amore o parlano d'amore continuamente, è una specie di quasi peste da Decamerone in cui stanno chiusi lì e parlano d'amore, poi a modo loro, nei linguaggi d'oggi. Quindi questa inflazione di esposizione dell'amore pretende la ricerca di qualcosa di intimo. Pretende la ricerca di qualcosa che innanzitutto sfugga alla possibilità di essere appunto detto amore, cominciamo da lì. Cioè bisogna cercare altri nomi. Noi sappiamo che se noi chiamiamo Dio Dio, può darsi che invece lo dobbiamo chiamare negativamente per trovare Dio, e cioè la teologia negativa e così via, no? Apposta dalla teologia positiva. Così, se noi lo chiamiamo amore, ci mettiamo su questa faccenda di cui ha detto Simonetti, cioè dire su questo spreco di energie fisiche. Poi lei pensa che oggi Nicoletti. No, va bene, ma magari il maestro Simonetti è un illustre precedente. No, volevo dire, professor Sgalambro, oggi la parola con cui si risponde al telefono nel mondo che conta, delle veline, dei produttori, dei cantanti e della gente, la copertina patinata, è amore? Subito, si dicono subito amore. La prima parola è amore. Quindi ormai è diventato come dire ciao. Sì, quindi sì, tutti si amano e quindi de quo nessuno si ama. Visto che abbiamo ancora qualche minuto, poi Battiato si allontanerà perché ha ritagliato questo spazio fra i tanti impegni, ma lo continuiamo a tenere sott'occhio al telefono, quindi potrete chiamare. Devo dire che è volata questa mezz'ora. Vedi, te l'ho detto, ma potreste anche stare fino alla fine, ma vi aspetta, non so se i vigili o i poliziotti. La polizia vi sta aspettando. Ci stanno quindi arrestando. Detto così. Sì, la polizia vi aspetta, quindi ritarderemo il vostro arresto. Vorrei sentire ancora una canzone, poi potrete chiamare all'800240024. Battiato continua a stare al telefonino mentre va appunto agli arresti domiciliari e noi continueremo a seguirlo. La musica amore, questa è una canzone che a me è piaciuta perché dà proprio il senso di quello che dicevamo, una lettura dell'amore, della poesia, della musica, del senso di avventura, della speranza, del mondo che verrà, immediatamente riappare nel mondo che verrà, che è venuto, ma era completamente diverso da quello che si immaginava. Thank you. Sono anni che non cambia niente, tutto è chiuso in un sacco a pelo. Con un dito quante macchine ho fermato, quanti stop alle frontiere ho sopportato. Degli Stones amavo Satisfaction, at the doors come on baby light my fire. Ascoltavo Penny Lane per ore ed ore. Mi ritorna l'eco dei concerti, mi ritorna l'acqua dentro il sacco a pelo. Mi comunicano dalla scuola superiore di polizia che aspetteranno tranquillamente Battiato ancora qualche minuto, dato che sono affascinati di sentirlo per radio. Franco, questa canzone è del 72. Sì. E ci sono tutti gli elementi che oggi nessuno conosce, che abbia meno di 40 anni, che rappresentavano il percorso, la scuola sentimentale, l'esperienza di tutti i ragazzi, il sacco a pelo, l'autostop, Woodstock, i Rolling Stone, poi Parco Lambro e via dicendo, l'Isola di Wight. Perché tu l'hai rimessa nel tuo giardino fiorito contemporaneo? Perché questa canzone l'aveva scritta Yuri Kamisaska in quel tempo e io ne avevo prodotto una versione, diciamo avevo fatto l'arrangiamento di questo, che poi non è uscita. E quindi ho trovato giusto, dopo tanto tempo, provare il riscatto di questa canzone. Ecco, quel ragazzo faceva autostop, andava nel sacco a pelo, sentiva le musiche dei Rolling Stone, si costruiva un mondo. Oggi, ributtarlo nel mondo in cui ti trovi te, che è questa grande meraviglia di vedere che improvvisamente temi alti, temi difficili, temi che attingono allo spirituale, che sembrava una bestemmia in quei tempi parlarne solamente, ecco, che impressione ti fa rimetterlo in questo mondo? Di estraneità, sinceramente. Professor Sgalambro, lei che ha qualche anno di più e quindi ha visto un po' più di mondo, trova che questi corsi e ricorsi, queste riapparizioni abbiano senso? Beh, è il senso della nostra vita. Poi non è mai uguale il ritorno. Il ritorno ritorna sempre in un modo diverso, poco diverso da quello che torna. In ogni caso, è una canzone magnifica proprio perché avverte questo senso del morire della musica, perché siamo in una fase proprio in cui la musica tende a morire. Morire non significa scomparire, ma tende a trasformarsi, a declinare un po' verso chissà dove. Va in sfumatura. Riprendiamo un Melog atipico con Franco Battiato in studio e Maglio Sgalambro, che in questo momento però sono partiti, stanno in macchina, però dati i supporti tecnologici che ci mette a disposizione la nostra contemporaneità benedetta, lo rintracciamo via telefonino. Stavamo parlando dell'ultimo disco di Battiato, Fleur 2, e fra le canzoni che abbiamo fatto ascoltare ne faccio sentire un'altra che a me ha colpito in maniera particolare. Fine dell'estate, come in un romanzo l'eroina visse veramente prigioniera con te dietro la finestra, guardavamo le rondini sfrecciare in alto in verticale, ogni tanto un aquilone nell'aria curva dava obliquità a quel tempo che lascia andare via, che lascia andare via gli idrogeni nel mare dell'oblio. Da una crepa sulla porta ti spiavo nella stanza, un profumo invase l'anima e una luce prese posto sulla cima delle palme. Cominciamo a sentire anche qualche ascoltatore. Stefano, buongiorno. Stefano? Sì, sì, sta. No, mi sente? Sì, Stefano, sì, certo, la sento. Ecco, io volevo far tornare alla mente un ricordo che ho dibattiato. L'ho sentito nel lontano 78-79 nell'aula di medicina si è messa a cantare. Allora in quel periodo cantava, suonava della musica alternativa. E devo dire onestamente che non mi sei mai aspettato che avrebbe fatto un successo del genere. Beh, allora. È un po' quello che ci dicevamo dall'inizio della trasmissione, sono venuti i tempi in cui tutta la sperimentazione ha avuto un suo senso, proprio il mutare dei tempi dà ragione a quelli che sono profeti della contemporaneità. Franco Battiato, hai sentito l'ascoltatore? Sì, sì, ho sentito. Lui dice la metamorfosi e l'evoluzione di Battiato in realtà ha dato dei segni quasi profetici di quello che oggi sta accadendo, fare musica alternativa, fare sperimentazione, studiare le armoniche, le mutazioni, le parti nascoste e sottili della musica. Oggi è un momento in cui, se non andiamo a cercare il sottile, a me quello che è evidente è molto ormai è corrotto dall'abuso che ne è stato fatto, abbiamo detto col professor Sgalambro. Ecco, ti rivedi te in questa sorta di precursore della complessità che viviamo oggi? Ma non lo so, faccio parte di una disciplina sinceramente molto complessa e ho fatto musica per motivi, diciamo così, trascendenti. Poi il fatto che tu all'interno del tuo mestiere eserciti i vari livelli, quindi c'è anche brani commerciali, però è giusto anche non dimenticare che la musica insomma è un'arte sublime, non si può ridurre a uno spot pubblicitario. Ecco, no? Senti Franco, tu sei stato anche un attento e profondo osservatore di culture diverse alla nostra. L'Islam echeggiava attraverso i dervisci nelle tue canzoni, che è già qualcosa che apparteneva a culture nascoste rispetto anche a quel mondo di riferimenti. Oggi questa è una presenza molto, molto costante, questa cultura che sembra quasi invadere, cambiare, mutare, si realizza nel mondo contemporaneo, non so, nel fastidio per l'odore del kebab che copre l'odore della cipolla, delle pizze nostrane. Ecco, come vedi la fusione oggi fra i mondi che tu vedevi in chiave poetica, oggi vediamo in chiave molto legata ai bisogni primari, quotidiani? Beh, sono due mondi che stai descrivendo che non si possono paragonare, perché in realtà negli anni 70 io studiavo l'Islam e quindi la tradizione religiosa di quel popolo, frequentavo quell'ambiente quando ancora non era stato toccato da questa faida internazionale di opposti e vicini movimenti. Cioè, voglio dire che il cattolico americano è identico all'estremista islamico, non cambia niente, sono due tipi violenti che usano la religione per motivi strumentali, per manifestare la loro violenza. È impossibile pensare che un religioso che sia appartenente all'Islam o all'induismo, poco conta, è impossibile che usi la violenza. Una delle verità assolute sulle quali posso scommettere qualunque cosa è che se un religioso è violento non può essere religioso, non può appartenere a nessuna religione, perché noi abbiamo anche dalla nostra parte, dalle nostre parti, cattolici che hanno una violenza che fa vergogna al cristianesimo, capito? Lo fa vergognare, e sono anche appartenenti a stati, diciamo, ufficiali, no? E quindi sì. L'anima non lo sono. Tu quello che lambivi, che lambisci o che tocchi o che studi, analizza la religione, è anche l'aspetto più nascosto, più sottile, più segreto. È ciò che alla religione appartiene a coloro che sono proprio innamorati del senso profondo dell'esistenza, non della pratica esteriore, basta. È così. Cristina, sentiamo Cristina. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Vorrei ringraziare il signor Franco Battiato per un suggerimento che ha dato di recente sul Corriere della Sera, la lettura di un libro che io ho recepito e mi ha dato un grande godimento, proprio fisico e spirituale. Il titolo è L'essenza della vita, del monaco benedettino, ma anche maestro zen, Willigis Jäger. Sono contento che tu abbia letto questo libro. Splendido. Ecco, questo è un esempio appunto di vessazione da parte della Chiesa Cattolica verso un monaco benedettino, santo Dio, Certo. L'hanno vessato perché lui ha unito zen al cristianesimo. Ci spieghi meglio chi sia questo monaco, che mi sfugge in questo momento, storicamente? È un uomo, un trentottantenne in questo momento, un illuminato assoluto, ha scritto un libro meraviglioso, come diceva la Cristina, che si chiama L'essenza della vita. Lui è Willigis Jäger e per scrivere questo libro è stato costretto a uscire dalla comunità, non è che lui è sempre monaco, no? Però non gli permettevano di pubblicare questo libro, non so se è chiaro. Sì, si muoveva fuori dell'ortodossia, e quindi naturalmente... Si può proibire una cosa del genere un papa, no? Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo salutato Franco Battiato al telefono, che ci ha dato gli ultimi istanti della sua presenza, però vedo che ho numerosi ascoltatori che vogliono continuare a parlare. In fondo il tema è molto chiaro e molto logico. Le canzoni attraversano la nostra esistenza, attraversano il nostro tempo. Le canzoni a volte sono testimoni di un tempo, a volte hanno una sorta di codice segreto, quasi una bomba a orologeria all'interno, che sono il senso profetico del mondo che verrà. E alcune canzoni che abbiamo sentito di Battiato danno la spiegazione di quello che sembrava abbastanza indecifrabile, poco comprensibile in altri tempi, nella vita che viviamo oggi. Roberto, buongiorno. Sì, pronto. Spenga buongiorno. La radio, però, sennò c'è un brutto riverbero. Sì, va bene. Niente, il senso appunto era quello che stava dicendo lei, di quello che proprio vuole esprimere direttamente Battiato. Si tratta di una spiritualizzazione della materia. Lui va in controtendenza, manda già questi messaggi da tanti anni, no? Lei lo segue da molti anni. Sì, no, perché lui in questa società aporistica e materialistica dove vale l'apparire e non l'essere, lui logicamente lui dà una controintendenza rispetto a questo sistema così materialistico, no? Però è raro trovare qualcuno che dice che è bello l'apparire, l'abbiamo già detto più volte, se lei ci segue. Sì, è la formula detestabile delle persone belle dentro. Qua tutti siamo pronti a dire ci piacciono quelli belli dentro, ma però ci piace la ciccia ben fatta e ci piacciono le persone ben vestite. Sì, però ci piacciono... lui questi messaggi subliminali lui gli sta mandando e sta la sensibilità della persona a saperli cogliere, ok? Allora ci sono delle canzoni cui testi vogliono mandare, come diceva lei prima, lei l'ha colta questa cosa, dei messaggi subliminali. Alcuni le colgono e riescono a trasformarli. Bisogna essere, diciamo, sintonizzati sulla frequenza giusta. Esatto, è una questione di sinergie proprio. È chiaro che l'umanità è fatta da tante sinergie. E lui nelle sue canzoni vuole esprimere anche un'altra cosa fondamentale. Lui, il male è dato dall'ignoranza. E su questo siamo la più o meno tutti d'accordo. Poi lui ha un'altra cosa che aveva espresso, legato al discorso karmico. In alcune trasmissioni lui aveva detto, lui non fa un dogma ecclesiastico. Lui dice questo, io l'ho interpretata così, non esistono ebrei, non esistono musulmani, non esistono cattolici, esiste solo il cuore dell'uomo. E di fronte all'entità uno, a Turra, di fronte all'unica entità. Cioè adesso lei però mi sta parlando di cose che ci vuole un po' di tempo per spiegarle, capito? Non la voglio. Lui, durante la trasmissione l'ho seguito, voleva dire quello, il cuore dell'uomo che conta. Ecco, vede, lei probabilmente è sintonizzato su una frequenza ancora più profonda rispetto a quella in cui sono sintonizzato io, e quindi può entrare nella quintessenza poi di quello che è un pensiero più articolato. A me però interessa e trovo molto stimolante il fatto che sia un cantante, un cantautore a lanciare messaggi subliminali che vanno oltre la sfera esteriore della piacevolezza, dell'ispirazione amorosa, del romanticismo, va a toccare quei punti essenziali dell'umanità che vanamente, molte volte, disperatamente, con mezzi molto più potenti, le grandi religioni cercano di toccare. E molte volte i sensi profondi passano attraverso la musica, attraverso parole molte volte anche scritte senza nemmeno la consapevolezza di quello che sarebbe l'effetto. Quando parlava Sgalambro della cura, una canzone scritta non immaginando che diventasse una specie di testo sacro. La gente vuole leggere la cura quando si sposa, i malati che stanno male, che non leggetemi la cura, improvvisamente sembra quasi che possano guarire. Gianni. Carissimo, buongiorno. Allora, io scendo molto più terra a terra e dovrei raccontare un episodio che per l'ennesima volta non riuscirò a intercettare il mitico Battiato. Per cui niente, l'episodio è, siccome è, risale all'ottobre novembre del 1972, cioè quindi parliamo quasi 40 anni fa, è però singolare ed è reale in quanto è capitato a me. E a è l'anno di E più ti amo, si ricorda quando ha detto Battiato, quando la canzone E più ti amo? Ma 72, lui, mi regalò per l'episodio un disco, cioè, se non sbaglio era Fumo di una sigaretta, una cosa del genere c'era in giro in quell'epoca. Comunque erano i primissimi suoi 45, parliamo, ne stava facendo il primo long play. No, ma l'episodio era così carino, nel senso che noi, io e un mio amico che eravamo di stazza lì presso l'ospedale militare di Baggio a Milano, aiutammo il allora malcapitato soldato Battiato Franco, che ripeto non si conosceva, attenzione, cioè non, cioè, poi lui ci fece questo omaggio. Quindi è stato commilitone di Battiato, se ho capito bene? In forza, noi facevamo non gli infermieri, insomma. Io nemmeno sapevo Battiato avesse fatto il militare, questa è una bella notizia, mi dispiace che lui non ci sapeva. Non solo, ma era con il, allora si usava un pigiama per questi, lui era un degente, era un militare, era lì in campo. Ah, marcava visita, marcava. Marcava visita, esattamente, e noi con questo pigiama marrone. Beh, allora, non poteva Battiato impugnare un fucile, questo mi sembra logico. È incredibile, esatto, e noi lo aiutammo con un marchingegno a uscire quella sera e anche la notte, perché non so bene dove andare, e lo aiutammo a scavalcare insomma il discorso. Quindi lei ha favorito un'evasione di Franco Battiato in pigiama militare da una caserma. Io spero che voi intercediate e gli ricordiate l'episodio. No, lo sto dicendo che adesso lui sta alla scuola di polizia, questo precedente, allora, questo potrebbe creargli problemi. Non può dire perché sarebbe veramente... Vabbè, ormai l'ha detto, penso che ci sia un'amnistia, poi non credo che sia un reato. Tutti abbiamo fatto fuga dalle caserme, io stesso posso confessarlo. Quante volte ho varcato il muro di cinta nottetempo per rientrare con la complicità di colleghi, ma ormai sono cose passate. Fabio. Buongiorno, salve, io chiamo da Bologna, volevo innanzitutto complimentarmi, non ne ha bisogno certo dei miei complimenti, signor Battiato, però insomma per le sue opere, le sue canzoni, però volevo contestare un po' quello che diceva a proposito della religione dei religiosi. Siamo qua. Niente, il fatto che un religioso non sia tale se è violento mi sembra una contraddizione in termini. Beh, violento, molte religioni hanno giustificato l'uso della forza in taluni frangenti, in talune circostanze, e non sto io qui perché non è mio compito giudicare se ho bene o male. Della forza. La violenza è un istinto primordiale e deleterio dell'umanità, in effetti chi ha una visione religiosa della vita e qualunque pratica religiosa lui metta in atto non dovrebbe essere violento, perché la violenza è qualcosa di incontrollabile, è subumana la violenza. La forza è un'altra cosa. Una religione può dire in nome di Dio tu puoi fare una guerra santa, l'hanno detto molte religioni. Sì. Espressamente quelle cattoliche e musulmane, espressamente quelle monoteiste, hanno chiari riferimenti violenti. Non è violenza, è diversa. Guardi, la violenza è una questione proprio lessicale, i termini. Fare uso della forza... Le scritture presunte sacre, perché poi... Sì, ma guarda, siamo tutti esegeti delle scritture. Scusi, parli per la sua esperienza. Io ho letto le scritture, ci sono dei messaggi violenti, violenti sia nell'Islam, nel Corano, sia nella Bibbia, dei messaggi aberranti, non violenti. Sì, vabbè, ma quando ha detto e quindi questo... definire un religioso che deve attenersi a queste scritture un non violento è un'ipocrisia. Lei mi permette, perché questo è un discorso vecchio come il mondo e... È scontato come l'acqua calda, mi scusi, ma ve lo dice a un minuto alla fine. Parli con dei religiosi, parli con persone che mettono in pratica quotidianamente le scritture, valuti lei. Prendere teoricamente una scrittura e può essere girata e rigirata in qualunque maniera. Può essere girata e rigirata a loro favore e la usano come messaggio. Ma loro chi sono loro? Ma i loro chi sono? I religiosi. Vabbè, i religiosi. Vabbè, l'ha detto. È contento adesso. Sono felice che lei abbia espresso il suo pensiero. Io, siccome non sono persona violenta, ma capace di violenze inenarrabili che arrivano a usare una motosega per segare le persone inopportune in questo programma, la saluto, la ringrazio, ho espresso il suo parere. Oggi è stata una bella trasmissione, combattiato, e la voglio chiudere in serenità. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.